America 24 di Mario Platero. L'esplosione che avete sentito è stata registrata in diretta a Austin, in Texas, nel momento in cui un piccolo aeroplano di turismo si è schiantato in un atto di terrorismo suicida contro un palazzo federale che ospita il Dipartimento Fiscale locale. Buongiorno, benvenuti ad America 24. Mario Platero vi saluta con un paio di notizie improvvise e allarmanti. Questa in particolare, di questo schianto contro questo palazzo federale che ha lasciato l'America sotto shock, ma ce n'è un'altra che abbiamo appreso in serata di ieri che oggi sarà digerita dai mercati e vedremo come. The Fed's gonna raise the discount rate by 25 basis points. Il dado è tratto, la Federal Reserve ha aumentato il tasso di sconto dello 0,25%, passiamo allo 0,75%, è la prima manovra di exit strategy. I mercati sapevano che Ben Bernanke avrebbe condotto un'azione di questo genere, non sapevano quando, la notizia è giunta all'improvviso. Gli operatori hanno reagito con nervi saldi, ma dobbiamo capire fra un paio d'ore, quando apriranno i mercati, quale sarà la reazione di oggi. Per ora c'è un'atmosfera di stabilità. Perché? Beh, perché i tassi sui fondi federali, quelli che davvero contano, resteranno attorno allo 0% fino a quando, ha promesso Bernanke, non avremo segnali di una ripresa dell'occupazione. Ma torniamo all'altra notizia del giorno, all'attacco contro il Dipartimento Fiscale ad Austin. Joseph Stack è partito al mattino, ha lasciato la sua casa, però prima l'ha incendiata per lanciare un altro messaggio. Dentro c'erano la moglie e la figlia, sono state salvate da un vicino, ha rubato un aereo, con questo aereo si è diretto contro questo palazzo e si è saputo quasi subito che non è stato un incidente. Aveva lasciato dei messaggi sul suo sito internet, un vero e proprio manifesto contro le tasse, contro il governo federale, contro l'oppressione della burocrazia. Parole non dissimili da quelle che ascoltiamo spesso nei Tea Parties e nei nuovi movimenti dell'estrema destra americana all'interno del Partito Repubblicano. Una coincidenza molto particolare. Proprio ieri, nel momento in cui c'è stato lo schianto, a Washington si apriva il convegno dei conservatori americani. Oltre 10.000 persone sono affluite per discutere del loro futuro. Come here to Washington DC and stand up to this big government agenda, not be co-opted by it. Big Government, chi parla è Marco Rubio, uno degli esponenti dei Tea Parties, questo movimento della destra repubblicana, un movimento semi-rivoluzionario che vuole abolizione delle tasse e riduzione del governo federale. Marco Rubio è riuscito a entrare nel mainstream politico, sta combattendo contro Chris, il governatore della Florida, entrambi vogliono vincere le primarie repubblicane per le votazioni per il Senato che si terranno a novembre. La sorpresa è che Rubio sta battendo in questo momento Chris. Il problema è che gli slogan di Rubio e quelli del movimento dei Tea Parties o dei conservatori americani non sono molto dissimili da quelli che abbiamo letto sul sito di Stack, il suicida che si è schiantato contro il Palazzo Federale in Texas. I strongly urge the support of J.D. Hayworth over John McCain. Mark Levin, commentatore della destra repubblicana, si scaglia contro McCain. Anche lui è al convegno di Washington, anche lui rappresenta la protesta. I commentatori radiofonici e televisivi sono scagliati contro l'establishment repubblicano, sostengono il movimento dei Tea Parties. Questa onda d'urto sembra che funzioni. Lo stesso McCain in Arizona, ricordiamolo, fu candidato alle presidenziali contro Obama, sembra che si trovi in difficoltà, ma con la notizia di questo attentato l'equazione politica cambia improvvisamente. Queste parole che hanno mobilitato la base del Partito Repubblicano sono sotto accusa, sono troppo dure e soprattutto hanno ispirato, come abbiamo visto, personaggi forse squilibrati come Stack, che poi ha deciso di prendere un aereo e schiantarlo come forma di protesta estrema contro un palazzo federale, come capitò ad Oklahoma City nel 95. How you doing, Mario? Very well. Very good. Yeah, I met him when I was 18 years old. in Milan. Leonardo DiCaprio mi saluta da Armani, dove c'è stata la presentazione del suo nuovo film Shutter Island. C'erano anche Martin Scorsese, c'erano gli altri attori protagonisti. È stata una settimana di simbiosi qui a New York fra mondo del cinema e mondo della moda. Bryan Park è andato avanti tutta la settimana, la Fashion Week, appunto la settimana della moda, si chiude oggi. Dall'anno prossimo passerà al Lincoln Center. A questa Fashion Week c'era anche una presenza italiana. There's a new Italian fashion statement in Bryant Park, edition 2010. For the first time, every accessory category of Made in Italy is showing together in New York City. La musica che avete ascoltato e la voce ci raccontano di una nuova iniziativa italiana, quella della FIAMP, che raccoglie sotto un unico ombrello attività negli accessori della moda, cinture, occhiali, borse, scarpe, pelletteria, pellicce. Per la prima volta si sono presentati a New York sotto un unico ombrello. Perché? Perché l'unione fa la forza e dunque questa Federazione Italiana dell'Accessorio Moda e Persona serve a razionalizzare quella che era una dispersione di iniziative e di eventi. Per gli Stati Uniti, in Italia continuano ad esserci troppi eventi. Sentiamo ad esempio come risponde Stefano Tonchi, direttore del New York Times Style Magazine, alla richiesta di Anna Wintour, potente direttore di Vogue America, che aveva chiesto che gli show milanesi fossero più brevi. In Italia c'è questa specie di servilismo all'interesse straniero, nel senso di chiunque chiede qualcosa direttamente, poi il problema è che non c'è un'organizzazione che risponde, ma ci sono dei singoli e ognuno cerca solo di assecondare il proprio interesse personale senza pensare a qual è il sistema della moda italiana, per cui tutti hanno detto: ah sì, volete stare a Milano di meno, vi faccio la sfilata quando la volete, ecco. In questo caso Milano ha ceduto, forse ha ceduto male, ma le polemiche restano. Si va a Parigi, a Londra, a New York e ci sono dei singoli eventi che fanno massa critica. Da noi, per esempio, per l'alta moda abbiamo a Firenze, a Milano eventi separati, si crea dunque polemica. C'è stato un altro esperimento di consolidamento, lo ha fatto Paolo Zegna nel settore della lana, quando ha riunito alcuni anni fa diverse organizzazioni per fare un'unica massa critica. Zegna oggi è vicepresidente di Confindustria per l'internazionalizzazione e a lui chiediamo se non ci sono forse troppe fiere nell'alta moda in Italia. Ma a mio modo di vedere no, non ce ne sono. E il paragone che altri fanno con Parigi, New York e Londra probabilmente non tiene conto di quella che è l'ampiezza dell'offerta e l'importanza dell'offerta che abbiamo nel nostro paese, che è di gran lunga superiore a quella che esiste negli altri paesi a cui ho fatto riferimento. Però concentrandosi sulle due aree principali di Milano e Firenze, io ritengo che non c'è un scoordinamento, non c'è una grande carenza di sinergia, c'è probabilmente da rivedere un po' la formula all'interno di quello che può essere soprattutto la settimana dedicata alla donna a Milano. Ecco, però questo cedimento, per esempio, davanti alla richiesta della Wintour, forse Parigi non l'avrebbe fatto. È stato giusto cedere? Ma guardi, questo è appunto un discorso che ci deve far pensare, che credo abbia cominciato a smuovere le acque, ha visto che c'è stata una presa di posizione di Giorgio Armani. Diciamocelo, ecco, da noi in effetti di fronte a una signora Anna Wintour che viene in Italia, tutti ovviamente vogliono sfilare nei momenti in cui lei è qui da noi. Se però noi prendessimo il problema al contrario, effettivamente riorganizzassimo e alternassimo grandi e piccoli, per me anche l'interesse della signora Wintour aumenterebbe e non credo che sarebbe un giorno in più o in meno che porterebbe a lei delle grandi differenze. Altre notizie: Bill Clinton ha visto il Dalai Lama alla Casa Bianca, un incontro privato, non ci sono stati fotografi, doveva essere la notizia del giorno, è stata poi ridimensionata da tutto quel che è successo. Ci sono mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che vive, sì, tempi difficili, ma resta pur sempre la nuova frontiera. Continuerete a trovarli su america24.com, il nuovo sito che vi porterà sulla sponda americana. Ed eccoci alla canzone del giorno con cui ci lasceremo alla vigilia del suo 77esimo compleanno e dopo un'assenza di circa 40 anni dal palcoscenico. Yoko Ono, moglie di John Lennon, è tornata sul palco insieme al Plastic Ono Band a Brooklyn. Dedichiamo a lei questa canzone, The Sun Is Down. The sun is down, the sun is down, the sun is down, it's getting so dark. The sun is down, the sun is down, the sun is down, it's getting so dark. Da New York è tutto, Mario Platero vi saluta, vi dà appuntamento a domani. Goodbye and get going.